che ore sono? Faccio la cognizione del tempo, tanto per cambiare. Vediamo. Le 8. E ancora è orario di il telegiornale. Vabbè Natali, dai, buon tutto, buona cena, già sentiamo. Poi fai quello che devi fare domani, così imparano. Ciao Tattalino. Ciao a tutti, ciao Gianni. Tatta, vai, ciao Natali. Ascoltato, vai, per anche per poco. Ci sentiamo, buona cena. Ciao Gianni. Uè, Frank. Ebbene, cosa stai combinando? A letto sono. Ehi, cavolo. Prego, ti stai alzando? No, Fra, già mi sto alzando, ma mi hanno operato da poco, quindi non è che posso fare... Ogni tanto cammino, faccio un po' di ginnastica, ma poi mi ricorico perché mi stanco subito. Certo. Sì, ho saputo che ti hanno operato. Poi, non so se sei morto, ma... da poco lo saputo. Kappa. Diciamo che giovedì mi hanno dimesso, dai, mi hanno dimesso giovedì, però ancora devo fare riabilitazione, non è che non è una passeggiata l'operazione che mi hanno fatto. No? Ma è andato tutto bene, sì? Sì, grazie a Dio, si sto anche camminando, ogni tanto mollo le stampelle e cammino da solo, però ancora sono un po' dolorante e un po' mi stanco, dai. I primi giorni non volevo visto, mi venivano sferimenti, capogiro, dalla debolezza, cosa ne so? Capogiro di coppo di Faravo. Mi hanno tenuto per miracolo l'altra volta, Marco c'era a casa, l'amico mio e mio figlio. Mi hanno tenuto tutti e due i marchi, perché se no te l'ho varato. Certo, non devi abusare già, devi rispettare anche l'operazione, devi rispettare, ma non bisogna abusarne mai. Meglio stare un po' in più che tu aggravarsi. No, ma infatti. Diciamo che era la debolezza, quello lì che me lo faceva fare i primi giorni, forse come ero sempre coricato, come mi hanno alzato, non ero sicuro camminando, niente, proprio avevo paura anche di mettermi col girello, ti varavo, capito? Proprio qua, io non mi ero mai visto così. Ecco, vediamo che va tutto bene. Ok, Marco, avanti. Ehi, lo fa già. Tanto tu hai, mi pare che hai visto anche l'operazione. Li tagliano quello che devono tagliare, aprono tutto fino all'osso, tagliano pure l'osso, è una cosa un po' impegnativa. Invece io, solo quando mi avevano dimesso da rianimazione, mi sentivo le gambe di piombo, cioè non mi sentivo le gambe, mi sembrava di essere pesantissimo la prima volta che hanno tentato di farmi alzare dal letto. Però c'era ancora tipo anestesia in circolo. Lo sa, ma mi aveva tenuto a braccetto l'infermiera. Mi sembrava che la gravità fosse altissima, mi sentivo schiacciato al suolo. Ed era, vabbè, tutto lo stress del coso, più residui anche di anestesia, però poi già mi sono ripreso. E lì invece tagliano di brutto, quindi ancora è fresca la cosa. Io ero sotto morfina il primo giorno, capito? Ero rincoglionito proprio, non capivo nulla. E vero, ero indormibile, aprivo gli occhi ma non capivo se ero sveglio o addormentato e poi li richiudevo. Ah, poi la sonnolenza dei giorni a seguire, io avevo questa sonnolenza molesta. Proprio mi mettevo a russare da un momento all'altro così. Infatti ho chiesto a mia zia che era arrivata, ma è normale sta cosa. Dice, tu già di fisico sei un po' così. Più un'anestesia, più un'operazione, insomma, al cervello, quindi dà un po' di edema. Di edema, no, un po' di gonfiore, di coso, tanti fattori sono. Vabbè. Comunque gli ospedali mi sono sempre stati, e il dentista è uguale, non... perché io ho i denti rovinati? Perché proprio non mi piaceva andare dal dentista, è come l'ospedale lo vedo, poi dolore non ne senti perché non ne senti, ma non mi ci trovo a mio agio, in mano ai medici di qualsiasi tipo siano. Marco, non penso che a nessuno piaccia andare dal dentista all'ospedale. Si va perché si deve andare, ma se no non è che piaccia a nessuno. Vero è, Fra? Mi sa che lì è più obbligo che volontà. Intanto già tre volte, anestesia generale, tre volte. Una volta mi hanno operato al pisello, è vero, eh? Una volta a calcoli renali e una volta quella susina in mezzo al cranio. E allora ti hanno messo il pisello, la pompetta come Berlusconi. No, era fimosi. E quando la pelle della punta è stretta praticamente non riesce a scappellarmi, bisogna fare un taglietto e rifinire gli orli, tipo il corso di cucito che fanno le donne, no? Però un capolavoro, poi le ragazze erano contente. La circoncisione all'elevata. Sì, però naturalmente non solo un taglietto, dovevano eliminare poi gli angoli in più di pelle, è uscita una bella cosa. Chi c'era all'epoca in urologia? Adesso è vecchio, devi vedere, è una tuttora campa, Tucconi, dottor Tucconi. Perché toccava, lo chiamavano così, Tucconi. E allora Fra, cosa mi racconti? Sono rientrato, era tutto bello a mettermi due gomme per la macchina, che ho le gomme lisce, e sono arrivato poco fa, pochi minuti. E come sei sceso a tutto bello? Quando a Sosso ci sono prezzacci di gomme? Sì, a Sosso le pago 90 euro, 90 quasi 100 euro, là le pago 70. E che marca? Ah, sai che non mi ricordo che marca l'ho messo. No, là me le mette mio fratello, là qui. C'è mio fratello lì che c'è un cucino. Ma sono marche conosciute oppure marche da dirsi? No, conosciute. Perché le gomme sono molto importanti, molta gente dice il risparmio, però la gomma nella macchina è tutto, se ti sbanda la macchina, se la gomma non tiene ti sbanda la macchina da ammazzi. Lo so, guarda, c'era un periodo che metteva i punti, li mettevo, e questo dalle prime che mi ha messo ha cominciato che lo sferzo era sorto e tu ha giocato, ma il maestro dice ci vuole la tavergenza, ha detto no, non ci vuole la tavergenza qua, se c'è la cura era fusso, ma guardate c'erano le gomme che erano rosate, me le ha rimesse un altro paio di nuovo la tavergenza, ha detto boh, finito. Questa assorsa? No, a Tascari, ai punti. Perché a me me l'ha detto Marco, c'è il cugino a Sorso, quello che fa che mette le gomme a poco prezzo, è il cugino di Marco, c'è il cognato, non il cugino, è il fratello, il marito della sorella. Sì, ho capito chi è, già lo so. Mettono le gomme, cazzo, quelle della macchina mia costano un belle gomme, mi sono gomme grosse, sono. Costeranno almeno 200 euro l'una. Sì, vabbè. Quanto sono di cerchio? Il cerchio è da 17. Ma io ce l'ho da 16, la mia è 195, 55, 16. Non la mia di più. Mi pare che sia 195, 90, 17. No, è 17, è più grande, sì. L'avevi cambiata la macchina? Sì, non lo sapevi, c'ho l'appunto 16 valvole, turbo, 120 cavalli. Alla Fiat si è andata questa volta? Sì, perché è Marco che mi ha convinto, ma le stanno facendo buone le macchine, la Fiat adesso non sono più come prima, e mi ho preso quella, ma non mi ha deluso, è una macchina che è una scheggia. No, già è vero comunque, dai, la Fiat diciamo che sta facendo macchine buone adesso, sta facendo, non come le altre che stava facendo prima, che dal primo giorno erano in officina, no, queste... Ho visto che ce l'hanno anche amici miei, ce l'hanno, e sono dei gioielli. Ma quale, la tipo? No, la punto, parlo della punto. No, io c'ho la tipo, c'ho... non la punto, no. 16 valvole, 120 cavalli. Ah, la tipo l'hai preso, caspita, sarà la nuova gli hanno fatto. K, color nero, cerchi in lega, da 17. Una bellissima macchina, va molto bene, una schigia, comoda, il bagagliaio molto grande. Guarda, ancora non l'ho vista da vicino quella macchina. L'unica cosa che c'ha è che paga un bel di bollo, 290 euro di bollo. Ehi, ammaccia, ma te la cilindrata avevi detto? 1400, 120 cavalli, turbo. Paghi tutto quel bollo, porca miseria. Arrivare 1600, 90 cavalli, e tu lo pago 172. Anche io con l'altra pagavo così, però non c'ha 120 cavalli, ne ha 90, è diverso. E i cavalli che ti fanno pagare il bollo? In base ai cavalli che hai paghi il bollo. Ecco, sì, quello già è vero. Caspita, comunque è una bella macchina, dai. Io l'ho vista da lontano, passando, l'ho vista quella locale di fronte da vicino, mai. Infatti, un giorno ci volevo andare a vedere lì alla Fiat, perché io sono anni che sono alla Peugeot, ma volevo cambiare un po'. C'è anche la Station Wagon, io se l'avessi saputo non lo sapevo, la Station Wagon pagavi 1000 euro in più e avevi la Station Wagon, sarebbe stata ancora più grande. Sì, poi alla fine cosa te ne fa una macchina grande? E cosa te ne fa? Io c'ho il cane, ci metto la gabbia, bisogna di vedere le esigenze che c'ha uno, capito? Ci metto la gabbia e ci sta lo stesso, ci sta lo stesso la gabbia qua, l'altra ci spendi 1000 euro in più. Avevamo già fatto l'ordine, ho detto se vuoi te lo cambio, lo strappo e te lo rifaccio tutto, però per 1000 euro, dice, per avere il cofano un po' più grande, ma cosa di niente, intanto ci sta la gabbia, ho preso le misure, ci stava, quindi non l'ho presa, però l'ho presa di color nero, come piaceva a me con i cerchi in lega. Ecco, color nero, uia, mamma mia, mi imbaglio. Vabbè. Io ho sbagliato, l'ho preso cosa nera, ma non la prenderei più una macchina nera. Ma infatti non c'è buco. Va bene, abbiamo traumatizzato un pochettino. Avanti Marco! No, fate, adesso è subentrato l'abbiocco, no? Dopo mangiato. E infatti mi preparo un caffè anche. E ho già... Sì, è bella la macchina nera, però la polvere, ma poi quando piove ci vuole una cura maniacale, bisogna sempre pulire. Quello per me sarebbe un incubo. Grigio acciaio, vabbè, è banale come macchina, però per la polvere è migliore. E invece la mia come ruote c'ha le ruote in legno a raggi, tipo barroccio a me. Infatti è un barroccio. C'era una scatoletta. Grazie, stavo dicendo fra, ma non ti credere, perché basta che tu attacchi il condizionatore prima di salire, come faccio io quando lavoravo. Io prima di salire sulla macchina attaccavo il condizionatore, intanto finivo di lavorare, mi cambiavo, quando entravo in macchina era bella fresca dentro. Lo so, anche io facevo così, ma diciamo che io quando uscivamo Marco decedeva e se ne andava e io stavo lì 5 minuti aspettando che pescavo un pochettino quando c'era proprio caldo, perché dentro non si poteva stare, ma per niente. E non so, accendevo l'aria condizionata con gli sportelli aperti. Io ti dico una cosa, sì, una fornace, io ce l'ho, l'altra che c'avevo, te la ricordi, era blu notte lo stesso, è blu metallizzato notte, però anche quella tirava il caldo, ma a me non mi piacciono le macchine chiare, mi piacciono più scure, sono sportive nello stesso tempo anche classiche, perché se vai a un matrimonio la macchina nera rende, capito? Sì, quello sì, io l'ho riverniciata. fatta la mia era un nero opaco, adesso è nero lucido, solo che non me l'ho data prima perché non so cosa gli è successo, la verniciatura, e me la deve ripare, me la deve, e me la deve lucidare ancora, me la deve, adesso me la fa più avanti, me la fa nuovo, me la fa nuovo, me la deve fare. Perché cosa è successo? Si è staccato il trasparente? Ma se è più o meno si è bruciato, dai, e gli ha fatto delle macchie, gli ha fatto in tutta la carrozzeria, e la deve tutta restare a nuovo, e adesso sta aspettando la primavera, in primavera parla, almeno dice esce lui. Lo so, ma la vernice ad acqua è così fra, fa un po' di difetti, a me la mia, la Station Vego, dopo, vabbè, io ti parlo dopo 15 anni che ce l'avevo, ha cominciato a uscire la vernice trasparente da sopra la capota, l'ho portata, me l'ha rifatta a zero tutta quanta la capota, dopo un po' di tempo si è di nuovo scorticata, l'ho riportata e me l'ha rifatto, poi me l'ha rifatto di nuovo, mi sono rotto le palle e non l'ho più portato. Non sarai che la dovrò fare, adesso la faccio adesso, me la tengo questa finché se vedo, vabbè, se vedo che deve entrare in officina ce la butto via. Quanto ce l'hai questa qua? 13 al mese entrante qua. Comunque l'appunto c'è anche diversamente, io l'ho presa GPL e benzina, no? Però la GPL fra, l'ho tirata sino a 185-190, se cammina un bel, anche a GPL cammina un bel. Ma guarda, sì, lo so che sarà bello, però se la prendo la riprendo diesel, perché cioè, questa mi sarà le soddisfazioni, come questo diesel. Non avevo mai avuto il diesel, ma l'ho comprato questa qua, ma questa è micidiale. Ma il diesel adesso dal 2020 cominciano a toglierlo perché è altamente inquinante, non ti governabile la diesel. Adesso quelle che vanno sono ibrido GPL benzina o ibrido elettrica benzina, queste macchine qua vanno, le nuove uscite dai, quelle che inquinano di meno. Se la tolgo, pazienza. Sì, l'unica cosa del GPL, ho paura di quella macchina lì perché capita un urto, uia. Non ti succede nulla, ci sono quattro valvole di sicurezza che bloccano l'uscita. Quando hai gli urti così, a parte che l'urto non fa nulla perché il coso è sotto, quindi non becca il serbatoio. E poi lo fa anche con quella benzina, secondo l'urto che ti danno il serbatoio, basta una scintilla e a VW. Sì, quello già è vero, quello già è vero. Un urto come abbiamo preso una volta con Marco, questo lì l'ho ubriato. Ah, quello del gommista di via Pirande? Eia. E già me l'ha raccontato, sì. Un casino, Ma comunque, io ti dico, quando viaggiavo a Porto Torres quattro volte al giorno spendevo 350 euro di benzina. Ho messo l'impianto a gas con 130 euro, viaggiavo tutto il mese. Eh sì, risparmio c'è, caspita, in maniera se c'è il risparmio. Quello già è vero. Perché vabbè, il diesel consuma sempre, io per dire ci mettevo tra gasolio e qualcosa che prendevo io intorno ai 200 euro al mese mi mangiavo con la mia, tutti i giorni, viaggiando tutti i giorni. Con benzina spendevo molto di più, mi sembra che erano, quando c'avevo la Peugeot, la 206, spendevo intorno ai 250, quasi 300. Io viaggiavo quattro volte però fra, capito? Salivo, scendevo. Per due ore la sera mi facevano lavorare, capito? Ah, tu quando chiudevano Alla riapertura dovete riscendere? No, non è che chiudevano, io facevo il turno, no, facevo per dire dalle 8 e un quarto sino all'una meno un quarto, poi prendevo e salivo a casa, mangiavo, alle 5 mi preparavo, alle 5 e mezza ero giù, facevo dalle 5 e mezza alle 7 e mezza. Cavolo, visto che te ne andate di passare, non era meglio mangiare lì. E cosa me ne stavo buttato come i barboni, quando non c'è famiglia, gli piace stare con i figli, gli piace stare con la moglie, non è che a pranzo almeno per vederli tutti si arrivo. Cosa fare, un barbone, cosa... il primo periodo li mettevo a pescare, ma poi mi sono annoiato, mi prendevo troppo caldo, estate, un casino. Preferivo andare a casa, a farmi il pisolino dopo pranzo, riposarmi e poi scendere. Ecco, un bel affare ci avevi. Poi è entrata la nuova gestione e mi hanno subito cambiato l'orario. Dalle 7 alle 2 o dalle 8 alle 3 e avevo finito. Vedi, così va meglio. Che fai tutta una tirata. Poi è mancata una persona e ho dovuto fare la sera. Facevo dalle 2 alle 8 e mezza, che poi non erano mai, erano sempre 10 minuti un quarto quando si chiudeva, 9 e mezza, 10 minuti un quarto. Va bene, Marco, addormentato ti sì? Quasi, dai, io vi sto ascoltando. E poi fra poco mi accendo la TV, vediamo se c'è qualcosa per passare la serata. E quindi dai, Corix, per me vi saluto e poi tanto di macchine io non posso metterci bocca. Poi non le distingo una dall'altra, proprio non ho la passione. Se succede qualcosa non saprei dire che macchina era. Dice, che macchina era? Guarda, aveva quattro ruote. Tutti uguali mi sembra, ove. Comunque rispetto Gianni a quelle Fiat, io ho avuto la vecchia Fiat Uno, il primo modello, pochi anni e l'abbiamo sotterrata. Mamma ha avuto l'altra Uno, durata un po' di più, sotterrata. Alla fine dei conti questa, poi la 126 bis, non te ne dico niente, era uno schifo totale, con quel motore a soglio l'ho fatta in Polonia. Con tutti i suoi difetti, questa Opel Agila, diciamo, le sotterra tutte quelle Fiat avute in passato. Poi vabbè, i modelli nuovi giustamente sono più curati, è che ci mettono un po' di elettronica, troppa elettronica c'è, troppe centraline, troppa roba sensibile, mamma mia. E poi quando ci rovina il pezzo te lo fanno pagare con le cambiali, col sangue. Marco, ehi. Guarda, io ho avuto la 500, l'avevo vecchio, la vecchio l'ho avuto. E l'avevo fatta a 650, avevo modificato il motore, ed era una bomba era quella macchina, e camminava un bel. E ti dico che quella macchina in officina non c'entrava mai, perché la conoscevo con le mie tacche. Quando succedeva una frizione, una cosa al motore, una rettore toccata, tutto io li facevo, tutto io, facevo a pezzi, andavo a casa, prendevo la testata, la portavo a casa, la facevo levigare e me la ripiazzavo. Quelle erano macchine che riuscivano a fare qualcosa, invece adesso non riesci neanche a cambiarti una lampadina. Io ho avuto la 595 Giannini, faceva 130 nella salita di Marini, però faceva i 9 al litro, faceva le corse con la macchina. Bella quella, la Giannini era bellissima. Allora io ho scoperto che faceva le corse, va bene, l'avevo presa a seconda mano, mi avevo venduto il sì perché a Sacro Cuore mi avevano detto venditelo perché te lo vogliono fare. E c'aveva il sì mio, c'aveva i pezzi 75, marmitta a serpentone, era tutta, camminava bene. E me la volevano rubare, quindi mi hanno avvisato, io me l'ho venduta e a quello che l'ho venduta le hanno rubato la prima. della settimana. Io con quei soldi della moto mi sono comprato la 500 Giannini a seconda mano, non ho aggiunto niente. Come ce li avevo i soldi li ho dati. Beh, fatto sta, questa macchina cazzo, camminava che cosa male. E un giorno sono andato da un elettrauto, quello dove c'è Birisi Risi, che si scende e va giù, e che c'aveva il filo della bobina da cambiare perché si era mezzo sciolto, tornando dal Alghero. E gli avevo fatto la giuntura io, meno male, c'avevo un filo e gli ho fatto il collegamento. Beh, fatto sta che gli ha cambiato il filo della bobina, mentre lo stava cambiando, vedo questa macchina e mi accorgo della targa. Cazzo, guarda, ma questa è la macchina mia. Dice, sì, è vero, questa qui la preparavo io, quella lì, questa qui è la macchina tua, correva questa macchina qua, io la preparavo elettricamente. Mettevo stacca batteria, li avevo messo, tutte queste cose qua. E praticamente me l'ha fatta vedere com'era, una fotografia enorme, ci aveva attaccata al muro, e c'era, si vedeva la targa della macchina, si vedeva la capota che era fatta a scacchi e poi ci aveva le strisce da una parte come si usavano prima. Ecco, la capota a scacchi, ma tu la capota intera ci avevi oppure la... cosa usa? Apribile, tettuccio apribile. Allora, tettuccio apribile, però duro, non di quelli molli, di molli. Duro, duro. Ho capito, sì. Quello non lo volevo sempre mettere, io qui non l'ho mai messo, non l'ho. No, io ce l'avevo la capottina nera apribile, bianca era la macchina, ma era bellissima, troppo bella era. Anche la mia era bianca, dentro c'aveva i contagiri, la strumentazione interna era tutta diversa dalle altre 500, il manubrietto Momo, il cambio, la leva del cambio abbassata piccolina, il mobiletto per metterci lo stereo, tutto quanto va via, era fatta un bel bene. Capo, sì, no, quello lì ce l'avevo anche io, il mobiletto per lo stereo, che l'ho comprata così, l'ho comprata con il mobiletto, e cosa c'aveva, la leva bassa, tagliata è stata quella lì, quella levetta lì. No, ho preso lì, è stata lì, adesso dove c'è l'Intis, mi sembra che si chiamava quello lì, Cureggio, mi sembra, che vendeva macchine lì, aveva di tutti i tipi di macchine usate, Fiat, Peugeot, Ford, Opel. No, non me lo ricordo questo qua, mi ricordo che c'è un negozio di moto lì, però non mi ricordo questo qui delle macchine, vabbè. Comunque in ogni caso io l'avevo presa da un privato, l'ho accompagnato al lavoro quando le l'ho comprate e poi me ne sono andato. Niente, perché se non mi pare vero, mi sentivo un signore con quella macchina, appena patentato era. Franco, dove hai detto questo posto? Appena patentato, io ne avevo ancora. Scusate, no, volevo chiedere a Franco, dove è questo posto che vendeva auto, Franco? Hai visto, tu adesso scendendo verso, dopo l'Impis, però dai carabinieri, andando dai carabinieri verso via Milano, verso lì, e arrivi al semaforo giri a sinistra, e lì era, a pochi metri. Ho capito adesso, dove c'era, vendevano le macchine di Y, la Lancia c'era. Ah, via Venezia. Lancia lì. E il proprietario mi sembra si chiamava di Cubito. Sì, ho capito dove era, sì. No, io pensavo che era verso il giù, verso, non verso su. No, verso su. Ed era lì proprio, la semaforo a sinistra, giravi, dietro l'Olimpico, mi sembra che c'era il ceduli lì. Di fronte ai giardiniti rimaneva, dai, io ho capito dove vendeva le Lancia quello lì, adesso non lo so se viene ancora usato, ma le Lancia ce le ha ancora. Non lo so, sono anni che non passo più lì. E comunque è via Venezia quello lì. Avanti Marco. Fiat Lancia così. È vero, anche quello non c'è più, no, ma cos'è? Le officine almeno ce le hanno, le hanno mantenute lì, solo le officine già. Mi sa che adesso c'è un gommista, se non sbaglio, dove era a fianco, adesso non me lo ricordo. Io ho avuto l'OT 50 Fiat, ho avuto la 1 Fire nuova, ho avuto l'appunto 16 valvole, 85 cavalli, poi ho già avuto Fiat, la 500, 2 127, una diesel e una benzina. No, io ne ho avuto 3 Fiat, ho avuto la 500, la 1 l'avevo comprata nuova, quella, poi, no, aspetta, la 500, poi ho preso la 127 usata, che l'avevo presa, quella lì l'avevo presa cosa, dove c'è Autolini, ma Autolini l'avevo presa, sì, e poi avevo preso la 1 nuova. Da allora le ho comprate tutte nuove, dalla 1. Io la 1 ho avuto la Fire e consumava un bel poco. Ti dimenticavi di mettere benzina, Maria, che andava aria e sta ancora girando quella 1 Fire che avevo io. È vero, già, l'ha avuta mamma. E un amico si era stupito, dopo una gita all'imbara, di quanto poco consumasse. Maria, che andava aria che c'ha macchina, li puli la benzina, ti dimenticavi di metterla. Eia, ma è vero, è vero. Sì, infatti si era stupito questo amico, dice, ma c'è ancora tutta questa benzina? Ci ha detto, basta avere il piede leggero, insomma. Eia. No, signore, io vi saluto, che la palpebra comincia a calare. E ci sentiamo quando capita. Dai, Franco entra un po' verso quest'ora, quando io sono già con l'occhio calante. E sentiamo le prossime, quindi ciao Fra, ciao Gianni, ci sentiamo, dai, buona serata, buon tutto. Ehi, Amato, prima mani, buoi dromi, boh, non vince mai questa frequenza. Vabbè, dai, sto scherzando, ci sentiamo, Marco, buona serata. Io... Marco, tutto a posto, adesso me la vado in ginella, me la vado, perché a volte esco da solo, a volte esco con mia moglie, e rientro tardi e voi ve ne state già andando, oppure a volte rientro che non ci siete più, più tardi che rientro a quest'ora, che di adesso 8:30, 9 a volte, e purtroppo è così. Non coincidono gli orari, dai. Ok, notte, ciao a tutti, ciao, anche gli ascoltatori, ciao. Ciao Marco, ciao, ci sentiamo. Natalino ancora ci sì. No, Natalino ha fatto quel RT, l'avevo fatto. Ciao Marco, ciao. Che aspetta. Io oggi avevo intenzione di salire, di chiamare a Marco, di salire da Marco e andare a trovare una persona, un ex collega, l'ho preso, in pensione. E invece tu l'hai fatto tardi. No, io stasera non l'ho visto, l'ho visto stamattina, è venuto a casa, ma stasera no. E vabbè, già ce n'è di tempo là, di fare quello lì. Come si chiama quello lì? Quello con i baffi, che era collega vostro, quell'anziano. Anziano? Cosa? Ma Giuseppe Pettinato? No, no. Che abita a Santa Maria di Pisa. Abita a Santa Maria di Pisa. Ah, Antonio Puledda. Puledda, dai. Con quello lì già si vedono ogni tanto. Sì, sì, io l'ho visto, l'ho trovato io anche da poco, a Bricomen. L'ho trovato Antonio. Sì, sì, sì. Che siamo andati, il primo me ne sono andato io, il primo di tutti. Poi gli altri tutti appresso. Ah, tu hai dato il via. E adesso non ci sono nemmeno più io, lo sai. Come mai? Mi hanno licenziato. Ti hanno licenziato? Perché? Io ho superato il comparto di malattia, avevo fatto tutte le ferie, tutti i permessi. Mi hanno licenziato. Li ha chiamati l'ispettorato del lavoro, adesso vogliono sapere il perché mi hanno licenziato. Loro hanno fatto un abbozzo di lettera di licenziamento, ma non vale a nulla se l'ispettorato del lavoro non controlla. Cavolo, la figlia di Marco hai fatto di la gira. Marco ha capito quella fine lì. E l'hanno licenziato poi quando ha finito tutto quanto. E siamo sfigati tutti e due. Vabbè, comunque, io, grazie a Dio, ho una buona liquidazione, quindi 2 anni li reggo tranquillamente, anche spendendo un po' di soldi. Sì. fino ad arrivare alla pensione, da voi. Una volta che mi danno la pensione sono tranquillo. Beh, se ti danno la pensione sì, però fare la liquidazione non è che dura un eterno. Se te la danno subito va bene la pensione. Non è che uno deve andare a mangiarsi i soldi accumulato durante gli anni di sacrifici. Lo so, ma purtroppo lo si può fare diversamente. Io grazie a Dio ho anche degli assegni ordinari, quindi riesco a campare tranquillamente. Posso spendere anche 2.000 euro al mese, quindi non ho problemi, per almeno 3 anni. Ecco, caspita, ma guarda questa gente come fanno, come andano loro, a quanto fare, se ti oppuni ti rompono anche le scatole. No, ma io non devo denunciare a nessuno, a me l'interessante è che mi dia la liquidazione, come devono darmela, e io me la gestisco dopo, non c'è problema, io riesco a gestirla tranquillamente. Certo, se non la gestisci tu, chi te la potrebbe gestire meglio di te? Aspetta, non lo sapevo che te l'avevo licenziato, e pensavo che eri ancora in malattia e poi rientrare. No, mi è arrivata 3 giorni fa la lettera. Sì, vabbè, basta vedere con il sindacato, vedere cosa va bene con il sindacato, lui ha quelli sono pezzi di merda, insomma. Lascia perdere, non sono più battaglini sindacalisti, fanno quello che vuole il principale, capito? Non sono più battaglini, non ce n'è più sindacati che battagliano come prima per l'operaio, sono tutti corrotti, si mira che il dottore da Luigi non fa di nulla, l'ho telefonato 50 volte e non risponde. Guarda un po'. La cosa che aveva fatto a me, quest'anno, quando ho fatto i redditi del 2018, no? Dal 2018, ho fatto i redditi, no, 2019, sono andato e gli ho detto, guarda, devo fare, prendere l'appuntamento per fare i redditi. No, dice, aspetta, mi ha detto, lo segno. Appuntamento, mi sta dando appuntamento e mi ha detto, dice, ma lei non è iscritto al sindacato? Ho detto, no, perché? Io pago, ma sto lavorando, ha detto no, con la pensione. Ah, non si deve iscrivere al sindacato, deve fare la tessera, perché se no non gli possiamo fare la denuncia dei redditi, davvero. E a quando? Non è così. Secondo lei io mi faccio la tessera per andarvene voi in giro a mangiare e a bere e a farvi l'Egitto. Vai, esci a Google, vai. Abbiamo di bene, me ne sono andato. È una persona che conosco bene, che lavorava giù dove lavoravo io, e lo conosce bene anche Marco, lo conosce a quello. Ho girato spalle dove sono andato e mi sono trovato il sindacato. Ma io ce l'ho sotto casa, paghi 50 euro e ti fa tutto quanto, lo sai andare al sindacato e cose, te lo sbaglio, non mi rivolte. Io c'ho una commercialista sotto casa mia, esco dal portone, sulla sinistra c'è la commercialista, sulla destra un po' meno bello, c'è l'agenzia di pompe funebri. E tu vai lì 50 euro e te lo fa, tranquillamente. Ma lo so, ne pago 30 io ne pago da dove sono andato adesso, 30 ne pago. Quando sei iscritto paghi di meno, capito? Secondo te se io ti pago una tessera tutto l'anno, che poi non è una cavolata, non è, a fine anno, capita, ti devo pagare anche il conto che devo pagare, per farmi i redditi. Non mi spetta almeno farmi i redditi senza pagare niente. Vabbè, vogliono 25 euro, vogliono. Se sei iscritto. E a me lo sai cosa mi hanno fatto invece dall'Inps? ho superato il reddito, devo pagarmi 900 euro al mese per 4 mesi, in più un mese mi hanno preso tutto lo stipendio, capito? Per gli sbagli che fanno loro, perché mi hanno dato soldi in più loro, ho dovuto pagare io 900 e passa euro al mese, 9,40, una cosa del genere. Ma non è uscita la legge chi sbaglia paga all'INPS? Non lo so, io ti parlo dell'anno scorso, non so se sia uscita adesso questa legge qua, però non lo so, comunque diciamo che aveva altre entrate se lo sei nel borso di vanno. A me al conguaglio quest'anno, quando mi hanno fatto il conguaglio mi hanno preso 200 qualcosa, mi hanno preso, capito? Quando ho visto la pensione ho detto, che cosa cos'è? Ho guardato della, che mi avevano dato in più, mi avevano dato e al conguaglio se li hanno presi. Ascolta, il modello Q da te ti arriva oppure te lo fanno davanti quando fai il 730? Lo scaricano loro dall'INPS, lo scaricano loro e poi fanno tutto loro. E te lo fanno direttamente dove ti fanno il 730. Marco insiste che bisogna andare prima a fare quello lì, quel CUD, e poi andare a fare il cosa. Ma la cosa a me me l'ha fatto davanti, è entrato nel sito dell'INPS e mi ha scaricato il CUD. Esatto, loro entrano nel sito dell'INPS, scaricano il CUD, fanno il 730 e poi ti danno tutto, il CUD e tutto ti danno a te. E allora ho ragione io, dai, Marco si ricorda male. Oia. E come si così, adesso quest'anno è un casino per me. È un bel casino, perché dove quella ditta che ci aveva, che aveva preso le ridini, praticamente che stava tenendo il personale, hanno arrestato a lui, adesso il CUD non si sa come fare, gli hanno sequestrato tutti i documenti, tutto quanto. Adesso noi siamo passati di nuovo alla nostra ditta, ma quelli che ci aveva dipendenti, più di 1500 dipendenti, tutti quanti licenziati. Ricordati che lo puoi andare all'INPS a recuperare il CUD, mi sembra, Informati. Ma lo so, vabbè, comunque vediamo adesso. Cosa mi dicono l'azienda? A noi ci hanno passato tutti al tourist market. Io non ho accettato più i Sardes che ci avevamo, li ho eliminati, non c'è più nulla. Ho speso tutto l'ultima volta che sono andato, ho fatto la spesa con i Sardes, adesso non ne voglio più sapere, anche perché questi Sardes, mettevi la password giusta, ti diceva che era errata, poi quando se ne ricordava si apriva il conto, te ne immagini? Qualcuno ci giocava, per carità. Va bene Gianni, dai, ti saluto che mi stanno chiamando giù a mangiare. Ci sentiamo, buon proseguo, buon tutto, se vedi quell'amico salutami. Ok dai Fra, ci sentiamo, buona serata, dai, tante cose belle, ciao. Ciao Gianni.